fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Siamo sempre in diretta, 3:43 minuti, è martedì 1 gennaio del 2019, quindi primo giorno dell'anno che stiamo passando insieme ai nostri amici, ai nostri ospiti, a tutti coloro che hanno voluto festeggiare insieme a noi l'inizio di questo, speriamo, bellissimo anno. Abbiamo qui due coppie, capiremo se nella vita anche, in ogni caso, due coppie, questo è vero, perché come dire, dal punto di vista dei cromosomi abbiamo due uomini e due donne, quindi sicuramente due coppie da questo punto di vista. Vai, andiamo a conoscerli e a capire da dove vengono. Volete partire con i nomi? Io mi chiamo Sandro. Ok. Roberta. Anna. Andrea, da dove venite ragazzi? Da Brescia, tutti e quattro. Ok, siete solo voi quattro? Gruppo allargato, no, magari no, fuori? No, prima anche. Ah, siete in compagnia, sì, di quelli Bovezzo, non esatto, Bovezzo. Esatto. Aspetta, cos'è? C'era anche la ragazza di Giulia di Cortine, brava, perché avevo in mente la località in montagna, ma non mi veniva. Ah, ok, quindi abbiamo un altro, il resto del quartetto. E voi siete quindi fidanzati, coppie o solo amici? No, fidanzati. Ah, tutti, bravi, cioè tipo tu con lui e loro. No, ok, giusto come siete. Bene. Allora, cosa vi ha portati qui? Vi hanno convinti loro? No. Ah, avete organizzato. Da quanto tempo organizzavate la serata? O avete deciso all'ultimo? All'ultimo. Vi siete così? 15 giorni prima. Neanche troppo. Ma perché non avevate alternative? Perché vi siete organizzati tardi? Perché si arriva sempre tardi. Ogni anno che passa ci vuole sempre, diciamo, più tempo. Per fortuna abbiamo certo. deciso tardi. Sì, beh, per fortuna siamo riusciti a trovare posto per tutti. Ci fa piacere riuscire ad accontentare più persone possibili. Allora ragazzi, voi cosa fate nella vita? A parte loro due colorarsi uno con l'altro, perché vedo tatuatissimi. Beh, io lavoro in una ditta qua a Ponte San Marco. Ok. Lavoro? Io studio all'Università Cattolica di Brescia. Cosa? Centro dell'Educazione e Formazione. Ok, benissimo. Lavoro? Lavori cosa? Artigiano. Tu, di tuo o di famiglia? Mio papà. Ah, di famiglia, quindi. Sì. Bello, cosa fate? Ripariamo compressori, aree compresse. Riparate compressioni? Sì, particolare. Manutenzione. Bene, particolare. Volevo un attimo parlare dei tatuaggi dei nostri ragazzi. Quanti ne avete? 18. Ma sommati io solo tu? Ah, ok, 18, tu quanti ne hai? Beh, calcolando che le ho fatte in 4 volte. Ah, 4 grossi però immagino. Ah, ok, 4 grossi. E hanno tutti significato? Hanno tutti un motivo di esserci? O vi è capitato qualche colpo di testa? No? Tutti pensati, ragionati. Dai, ditecene uno a testa. Il più significativo. La mia bisnonna si chiama Rosa. Vai? Come? La mia bisnonna si chiama Rosa. E hai ovviamente tatuato una rosa, vai il tuo? Io per mio padre qua al petto. Ok, cos'è? Non c'è rimedio al tuo errore. Non c'è rimedio al tuo errore, bello. È una cosa, beh sì, a cui tieni molto, immagino, significativa. Ok, voi invece no, vi vedo abbastanza puliti. Ah, tu ne hai? Anche tu significativi? Io sulla schiena, ne ho tre. Tre, ok. Vai, anche tu raccontacene uno. C'ho Scorpione, il mio segno zodiacale. Bello. Di nascita. Bello. Un colpaccio. Bello. Tu invece sei ancora Linda? Sì, però vorrei farli, ma non ho coraggio. Ah, non hai coraggio? Beh, non hai coraggio. Guarda, lei ne ha 18, è ancora qui sorridente, viva e vegeta, che ce li racconta, quindi... Lo farei diciamo... solo per i miei genitori. Ma... Ah, ok, importante che tu... Non so, vuoi darci... Vuoi... lo so, arrivo, c'è coda, traffico, arrivo subito. No, dicevo, vuoi enunciarci un libro importante di scienze del visto che loro hanno parlato dei loro tatuaggi? Vuoi enunciarci un testo di riferimento del tuo... No. Non è una grande studiosa, dici? No. E cosa ti piacerebbe fare da grande? La maestra d'asilo nido. Vabbè, quindi rimanere comunque sì, nell'ambito. E come mai proprio asilo nido? Perché la mia passione è più grande, sono i bambini che vanno dagli 0 ai 2 anni. Poi li rivendiamo al miglior offerente. Però preferisco quelli piccoli. Sì, beh, ecco, sappiate, genitori di tutta Italia, che se mai doveste avere Anna, giusto, tu sei, ecco, Anna come maestra nella zona di Brescia, fatevi due domande e sappiate che nel momento in cui il vostro bambino compie 2 anni e un giorno, ci sarà un repentino cambio di interesse nei confronti della maestra rispetto al bambino. Cioè che fino al giorno prima erano coccole, dal giorno dopo si dimentica assolutamente che questo esista al mondo. No, ovviamente si scherza. Allora, volete dire qualcosa, mandare un messaggio, salutare qualcuno, non lo so, avete un microfono, approfittatene. Voglio salutare tutti i miei familiari che non hanno potuto trascorrere il Capodanno con me perché ho deciso di andare in festa con i miei amici. Uh-huh. Bene, avranno capito. E oltre a quello dire a tutti forza Roma. Ci sta, bisogna manifestare anche la propria fede calcistica, vai. Saluto solo il mio cagnolino che mi manca. È piccolo, ha 2 mesi, allora lo volevo con me. Ci sta, capisco, vai. Io saluto i miei genitori e tutte le ragazze che insieme a me fanno concorsi di moda con cui mi sono legata molto. No, fai anche concorsi di moda, vedi che c'era qualcosa da scoprire in te che non ci hai raccontato. Ah, ok, bene, come va? Bene, grazie, per ora sono Miss Dello. Miss? Dello. Ah, Dello, scusa, capito, io giuro ho capito Miss Nello. Cioè Miss Snello, cioè per quanto, infatti dicevo che premio è Miss Snello, Miss Dello. E Dello. Poi ho una finale da fare a gennaio per un negozio di Brescia. Ma in cosa consiste la camminata? Sì, fondamentalmente. Sfilata in intimo, sfilata con gli abiti da sera e poi con gli abiti dei negozi sono concorsi solo in intimo, mm-hmm, o costume e abiti. Ma ti capita di lavorarci o è una cosa estemporanea? Delle volte riesci? Ma non vorresti farlo come professione? Come professione no, però per ora... Cioè per scelta o per mancanza di possibilità? No, per scelta. Per scelta. No, perché facendo anche la ballerina... Ma quante vite vivi? Quante cose fai in un giorno? Una giornata è 25. Madonna, complimenti. Preferirei insegnare danza che fare per esempio la modella. Ok, ballerina di cosa? Danza classica. Beh, insomma, il portamento, l'eleganza e come dire, lo stile rimane. Si distingue in tutto. Ok, vai, manchi tu? Io voglio salutare, vabbè, oltre ai miei parenti, tutti quelli che ci ascoltano. Bravo, bravo. Augurati un buon anno. Bravo. Sperare che sia un anno migliore rispetto allo scorso. Speriamo. Non che sia stato devastante. Conosciuto un pazzo di merda. Vabbè, però. Non diciamo parolacce in radio. No, vabbè, a parte quello. No, io non volevo rovinare una coppia, ecco, più che altro, al di là della parolaccia che ci può stare. Non volevo rovinare un rapporto. E comunque forza Juve, non forza Roma. Vabbè, giustamente. No, no. Sempre forza Roma, grandissima. Forza giustamente. No, le abbiamo dette tutte, diciamo che la par condicio è assicurata perché le abbiamo dette più o meno tutte, le prime quattro almeno. C'è un... Non abbia detto che manca il suo B&B? Certo, quello... Beh, ma probabilmente era esatto, era scontato, quindi non voleva sottolinearlo. Va bene, anche quello è B&B tatuato. Sì, degli anni 85. Bellissimo. Ah, sei un appassionatissimo. Quello è super vinto. Tanto mi fa specie che sia sul suo sfondo del telefonino la tua macchina. Sì, ovvio, deve essere. Ah, deve, proprio da contratto. Bene, mi fa piacere. Ok, ragazzi, grazie mille allora e in bocca al lupo per tutto. E buona festa, buona fine festa, se rimarrete ancora con noi a ballare un po'. Anche perché, insomma, abbiamo una ballerina nel gruppo, quindi almeno che, insomma, ci mostri le sue doti e le sue capacità. Alle 6 stamattina, c'è ancora tempo. 59 andremo via. C'è ancora tempo, non vi preoccupate, anche perché noi poi dovremmo fare colazione, quindi alle 6 arriviamo con la fame, tutti pronti in prima linea. Grazie a voi, buon divertimento ancora e buon anno. Ciao! Ciao.